chi sbaglia a fare le strisce. A chi invece avvelena le pissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro. Un carissimo abbraccio in questa serata uggiosa di novembre, l'inverno finalmente è arrivato, un abbraccio dal vostro affezionatissimo Jack. Un abbraccio da Francesco in questa serata di shop, cioè siamo ancora in shop, ancora per due ore, i treni sono in shop, le stazioni sono chiuse, esatto. il sito delle ferrovie belghe chiaramente non lo diceva. È il bello dello sciopero, hanno scioperato anche quelli che lavorano al sito. Pensa che un'amica mia che verrà a trovarmi fine settimana dall'Inghilterra mi diceva, ma sarà a posto, perché quando ho comprato il biglietto dell'Eurostar mi hanno detto, ah, non sono andati giovedì perché le stazioni sono chiuse. E allora sono andato a controllare il sito delle ferrovie, però non diceva niente. Benvenuta in Belgio. È il bello di questo paese che noi amiamo e rispettiamo ovviamente. Un caro saluto al nostro DJ, all'uomo bello con la barba là dietro al vetro. Ciao ragazzi, come stai Giulio? Bene, sono arrivato a mangiare oggi. Cosa? Sono riuscito a mangiare prima della radio. Ah, beh, è un anch'io, miracolo. Anch'io. Io no. 2-1, possiamo dire che il 66% esatto. Dello staff di questo studio ha mangiato. C'è un miglioramento. 2 ore stasera, direi. Sì, sì. Possiamo anche fare 2 ore di radio. Sì, sì, perché no? Tanto dietro non c'è nessuno. E poi di ospiti qua mi sembra che non abbiamo problemi in questo momento. È lo squadrone. Sì, sì, sì, una specie di nazionale di calcio praticamente. A meno fosse quella femminile. Sì, vabbè, non si può avere mica tutto la vita. Una volta ti danno una volta ti danno un paio di fighe, un'altra volta ti danno un barese, ognuno c'ha le sue. Questa volta abbiamo un carissimo ospite proveniente dal Tacco d'Italia che vogliamo introdurre, prego, visto che lei ha dei documenti in mano. Io ho documenti ufficiali, ma innanzitutto vorrei vedere se tu Giacomo, prima di passare a martoriare il nostro concorrente, se tu Giacomo sei preparato, se Parigi avesse l'Umera, Bari sarebbe Parigi. Quasi. O Parigi sarebbe Bari. Vediamo un attimo vediamo la versione originale. Salve a tutti, mi chiamo Luigi, sono barese. Scorca Luigi Impso trattino Ext. Sì. Ex di qualcosa? Sta per ecstasy. Sei un tossicomane. Benvenuto nel club. C'è chi diceva, ma in Belgio le droghe sono legali? Beh, sì, beh, non mi stupisce. Infatti, guarda il livello di persone che ci abbiamo. Cioè. Allora, se Parigi avesse l'Umera. Non sarebbe Parigi, sarebbe Copenaghen, forse. Perché Copenaghen è al mare. Vediamo, facciamo un altro proprio di cultura generale. L'Italia è il paese che amo, che ho le mie radici, le mie speranze, no, i miei orizzonti. Perdonami, te non lo sai leggere, se posso, mi azzardo. Su le mani. Allora, cosa ti ha, Scorca Luigi, cosa ti ha portato in questo luogo di perdizione? È difficile dirlo, mi ha portato un aereo a metà che settembre. Che fantasia, pensavo fosse venuto in bicicletta. Stavo pensando a venire in bicicletta. È una bella gita. Parigi Roubaix, sì, proprio con le valigie. Poi ho pensato, con la bicicletta, non sapevo dove mettere le valigie, quindi questo era il grande problema. Tu quando? Il cestello, lì davanti, un po' di fantasia anche te. C'era anche la gonna, sai, tipo Monella. L'hai visto quando c'erano quelle specie di tandem con il rimorchietto dietro? Sì, ci mettono i figli. I figli, però ci puoi anche mettere le valigie. Sugli Appennini ci puoi mettere le valigie. Certo, che comodo, io direi senza c'è un tour d'Italia, Svizzera, Germania, poi ruote fini che supponevano da Dio, sì. Io dico che potevo anche allungare per la Romania, così mi facevo un bel giro più largo. Tantur si chiama, quello si chiama Tantur, si chiama giro in bicicletta, ragazzo, è una roba diversa, qua si fa Gare du Nord. Ai ai ai, Scorca Luigi, lei mi è caduto sull'uccello. No, non è quello sull'uccello, magari su un'altra parte, su sua su altre parti del corpo, ecco, contundenti, come diceva Marrazzo. Senti, piuttosto, signor Scarcaluigi, posso dare del tuo o preferisci? Ma assolutamente del voi. O del voi altri. O del voi altri. Come, quando ha per la prima volta calpestato il suolo belga? Ho incominciato a frequentare questo ho frequentato Bruxelles, la fine settembre. Ho incominciato uno stage, sto facendo adesso uno stage in commissione, mi occupo di telecomunicazione. Abbiamo un altro eurocrate. Un eurocrate. L'eurocrate, ragazzi. Attenzione, che roba strana, Giulio. Avete un sacco di cose. Giulio, tu ne sai qualcosa di eurocrati? Non l'avrei mai detto. Piuttosto avete un sacco di cose di cui parlarvi, Giacomo. Cravatte e beggio. Cravattone. Qui tra l'altro, l'eurocrate è arrivato con la mail stampata a Scarcaluigi Impso Ext. E una Google Maps, sentite, la carta a colori, vorrei farti notare a colori. I soldi dell'Unione vanno tutti nella stampa a colori, quelli sono dei fondi di coesione, capito? Te la spiega lui, te la spiega Scorca Luigi, la ma in realtà lui ha detto: io faccio queste fotocopie qua a colori, ma lascio comunque un pagherò, e in realtà questi soldi verranno detratti alla regione Puglia, anzi alla regione Basilicata, perché siamo più simpatici. Non so chi deve conoscere Ratman, alzino la mano, nessuno. Famosissimo, è veramente geniale. Io conosco Spalman, Spalma la merda. No, Ratman, io faccio un po' di pubblicità. Ratman era disegnato da Leo Ortolani, che è un geologo, e iniziò e uscì per la prima volta come striscia aggiuntiva a Batman, ed era una parodia. Ah, ho capito! E adesso ho capito, è una striscia indipendente. Sì. E l'ultimo suo episodio è Ratto 2, La Vendetta. E cosa c'entra con lui, scusa? C'entra perché, no, c'entra a proposito non con lui, ma con i fondi di coesione. Perché dice, va in Birmania e dice, questi bambini con la malaria, con 10 sacchi si potrebbero pagare la vaccinazione per un anno a un bambino. Io col mio iPod ho speso 30 vaccinazioni, ce ne sono anche da 15 vaccinazioni, ma vuoi mettere il suono? è il bello dei fondi strutturali. Dicisi anche i fondi per la porcina, maledetta febbre che sta creando così tanto scandalo nei nostri paesi, Belgio e Italia. Ma il nostro signor Scork, addirittura anche la seconda pagina di Google Maps l'ha stampata a colori. Infatti il punto A, come vedi, è il punto B di arrivo. Cioè da Ruarlon a... È incredibile, questa è veramente un'opera ingegneristica. Cos'hai studiato, ragazzo? Io, architettura. Eccolo lì, si vede. Ma non per la parte di Arc, ma quella di Tetta, naturalmente. Giustamente. Si vede dall'ordine con cui poni le cose. Girare, continuare... Gauche, droite. Ma non era più semplice prendere la metropolitana fino a qua? Si vede che non hai fatto scienze politiche. Italia è il paese che ami. Qui hai le tue radici, le tue speranze, i tuoi orizzonti. Sì. Non voglio negare il mio profumo. Com'è che è? No, ho scelto di scendere in... per poter compiere la scelta di vita, ma non voglio italiani, insomma, comunque la storia. Io lo porto con me quel discorso. Ma quelle dito di antica memoria, te lo porti dietro perché vuoi conquistare la presidenza di questo paese o della commissione? Sei tu il candidato alla presidenza, famoso, il candidato ombra, quella sorpresa che adesso verrà fuori, il nuovo Lino Banfi, no? Il nuovo Cassano, scegli tu. Maranna! Tra l'altro oggi un mio collega, e lo cito perché lo devo ringraziare, Matteo, mi ha detto una battuta di Lino Banfi che è stupenda. Dai. Volatili per diabetici. Arrivaci. Tu non so se la sai già. Non ci arrivo, non mi fai ridere lo stesso. Tu la sai? No. Volatili per diabetici. Che ti amari. Cazzi amari! Sono molto alle risate, veramente incredibile. Avete veramente un bagaglio di stronzate incredibili. Noi ve ne siamo grati, vi vogliamo molto bene. Allora, parlaci un po' di te. Tu sei barese di Bari. Io sono nato e cresciuto a Bari, sì. Vecchia, nuova, antica, sulle montagne, sul mare, comunità montana. Così moderna che c'è ancora in tenda. Quindi quelle i reduci del terremoto. Ma il terremoto voi non c'era stato. Per prendere i soldi avete detto erano gli Alpini, hanno sfruttato l'ignoranza dei milanesi che erano al ministero. Ma gli Alpini è successo un secolo fa. Abbiamo allargato la zona del terremoto fino ad arrivare in Puglia. Quindi avete trasformato un normale campeggio estivo in un campo profughi, dicendo abbiamo bisogno di soldi. Si sono messi tutti insieme a fare così con i piedi, e poi così hanno simulato un terremoto e hanno fatto venire geniali, con il ministero. Geniali. Ma questa Bari vecchia è così pittoresca come la descrive Antonio Cassano, ossia che non è capace di mettere in fila tre parole in italiano? Sì, diciamo che la Bari vecchia è... cioè, la città di Bari è particolare, Bari vecchia è molto bella. E la cosa più bella però non è, diciamo, la cassanità, le persone di Parivecchia, ma il cibo, il colore, cibo è qualcosa di particolare. Il bambino che ti ruba il portafoglio appena c'è. Quello è folklore, quello è molto folklore. Però la parte migliore forse è la focaccia alla barese, non ecco, la focaccia alla barese. Trova, esatto. Allora adesso ti faccio una bella domanda, visto che la focaccia è già? Perché questa è una questione importante per un milanese che va al mare in Liguria. C'è questa diatriba, ossia al nord si dice che la focaccia più buona d'Italia provenga dalla Liguria, al sud si dice che la focaccia più buona d'Italia provenga dalla Puglia. Bravo, ci siamo d'accordo con te. Posso venire anch'io? Se ti interessa, se hai questo tipo di gusti, prego. Sì, per il nostro ascoltatore Giulio sarà assente per un periodo tra i 2 e i 5 minuti. Quindi dipende dai suoi parti corporali. Quindi, qual è la differenza? Tu hai mai assaggiato la focaccia ligure? No, la focaccia ligure no, non sono stato in Liguria. Si boicotta per definizione. Cosa ho fatto? Ligure? Brucio il negozio. Come ti permetti di vedere la focaccia ligure? Cos'è che c'è di particolare questa focaccia barese? È oleosa. Ci fate il pavimento? Sì. O vi abbronzate con la focaccia, la spalmate addosso? Tintura di iodio? Tu la olei spalmandotela addosso e poi la infine. Ah, beh, bella. Questa sì che è una bella figura. Sto adesso vado a raggiungere Giulio anch'io. La roba la faccio uscire dalla bocca. Così c'è anche un attimo il sapore di sale, capito? Ricordiamo che sei in fascia protetta, ragazzi. Quindi piano. Tra l'altro, ho sentito parlare di una spiaggia bellissima, pare sia tipo pomodoro e qualcosa. Pane e pomodoro. Pane e pomodoro, sì, pane tipo radioattiva, no? Una roba del genere. Non lo so, non so dove sia radioattiva. Come? La tu la conosci? No? Tu di dove cavolo sei? Raccontaci un po' la tua, facciamoci un po' cazzi tuoi. Ma allora, famiglia e genitori cosa fanno? Sono tutti di Bari. Tutti di Bari? Sì. Tu sei nato a Bari? Io sono vissuto, studiato a Bari. La mia famiglia è nata, cresciuta, vissuta. Hai fatto l'amore a Bari per la prima volta? Trombato a Bari per la prima. Non dico per l'ultima perché... Beh, ti auguro proprio di no. Sì, ecco, anzi, cioè uno emigra anche per quello. Esatto, con le italiane. Poi, perché che c'hanno le italiane, scusami. Qua ti tocchi in brutto tasto. Qua siamo due che con le italiane non hanno più a che fare da molto tempo. Io non ho una ragazza felici e contenti. Italiana 2003, probabilmente è molta colpa mia, però... No, l'Italia è rifugiato, Insomma, me ne vado, sono io che me ne vado, non sono loro che mi cacciano. Non sono loro che non me la danno, insomma. Allora, non ho mai detto questo. Italiane, Sofino Zeppo, anzi, salutiamo le nostre amiche italiane. Se volete fare l'amore con Francesco potete scrivere, potete anche telefonare, venire qua di persona, potete presentarvi di persona, cominciamo col casting, anche Luigi penso che sarebbe interessato, appunto, facciamo un bel provino, insomma. Esatto. Pronti, ricordiamo radioalma.centocitta@gmail.com. Luigi questa mail la sa bene, visto che mi ha scritto 850 mila. Abbiamo qui anche tutto il la storia del record, la storia del sì, ci sono qua pagina 1, 2, 3, 4, guarda, neanche fronte retro, neanche fronte retro, neanche due pagine sullo stesso foglio. Sporca Luigi, veramente. E la quarta è bianca per prendere gli appunti. Ma che roba! C'è anche scritto pagina 4 di 4, ma completamente bianca. Per prendere gli appunti, perché non avere gli appunti di le ardenne piangono per colpa tua. Nel caso non mi bastasse la mappetta a colori. No, però, ragazzi, parliamo seriamente, perché questo è il problema. Cioè, se io non stampavo tutta quella carta, poi non avevo carta da riciclare. Quindi, di conseguenza, insomma. Però la persona assaggia, cazzo. Pensavo fosse un pirla, invece no, la persona assaggia. Però è tutto rispetto, è come dire, bruciamo le case e poi le ricostruiamo, lo stesso metodo di Roosevelt nel New Deal, scava la buca e poi la rientri, ti pago per fare queste cose. È geniale, Jesse. Infatti l'Unione Europea più o meno funziona così. Però vabbè, sorvoliamo. E come ti trovi a Bruxelles? Bruxelles è un po' dei cazzi tuoi. Dici un po'. Un barese che viene qua a Bruxelles, non è che si incontra tutti i giorni di barese. Giulio non è ancora tornato, quindi abbiamo tempo. Infatti, prima che parte la canzone. Ah, prima che parte la canzone. Poi poi l'interesse per la mia vita che vi spinge. Non di sentire, non essere timido. I nostri radioascoltatori hanno bisogno anche di brio, visto che il nostro DJ ha scritto 1 2 3 4 5 6 volte. Non è la colpa mia, la prima email era la vostra, quella è quella che portava via del tempo e della. Io capisco tutto. Però davanti a una tra l'altro sforzo collettivo, veramente è stato veramente un colco questa italiana, italofoni, italiofili appena arrivati in Belgio, volete venire a Centocittà giovedì sera alle 20 Radio Alma 101.9 Rudio Belgrado 120, ti metto pure la mail, chi prima arriva primo alloggio. E poi chi è? Che cazzo scrivi scusa io scriveteci ancora a radioalma.centocittà sì, solo per dire voglio venire alle ore 20 tutti i giovedì Rudio Belgrado 120, non c'è... Ma come sarà questa trasmissione? Ma farete molto male, sarete molto cattivi, ragazzi. Mamma, il ragazzo ha bisogno di conferme, ha bisogno di conferme, perché è appena giunto in quel di Bruxelles, una terra straniera, ha bisogno comunque di connazionali che gli stiano a fianco. Hai già fatto la canna, Scorpio Luigi? No, però ragazzi, ho una confessione da farvi. Spara. Ho preso la scarlattina. Beh, puoi anche uscire, quando sarà incinta sarà un problema, ti sei curato? La no, io voglio prendermi malattie, fai fuori. Cosa ha fatto mi sa la scarlattina? Io no. Puoi baciare Giacomo. Ma quello che ha fatto la scarlatina famosa adesso è un altro che se l'è presa giù in, perché la scarlatina la prendi dai bambini. Quindi tu cosa hai fatto con i bambini? Con le bambine. Con le bambine. Fai sempre. Sei russe di recente, dormito nel lettone. Testatelo poi quando usciamo da qua. Certo, cosa mia. È meraviglioso. Abbiamo anche due ospiti che sono i nostri nuovi guardiaspalla. Sì. Li abbiamo assunti apposta per picchiare l'ospite quando inizia a diventare troppo fastidioso. Vero, ragazzi? Giustamente sono cosa potremmo raccontare? Cosa potremmo raccontare? Immagino, infatti. Tra l'altro storie. Ma io sono palermitano, dunque omertoso, quindi c'è anche la coppola, c'ha giacca di velluto, non se l'è levata la coppola. No, c'ha la coppola. Lui invece vedendo come vestito è più a nord. No, molto più a nord. Lui però ho delle colleghe leghiste, quindi addirittura. Palermitane? No. Palermitane leghiste? No, insomma. Io sono palermitano al Parlamento. E quindi c'è questa... Non pagato, ovviamente. Queste penetrazioni. È tenuto il turbinino. Ma la parola penetrazione viene pronunciata da questi gesti. Sai com'è? Non per niente una sedia contro il muro. Sono le 20:20. Giulio è tornato. Facciamo uno stacchetto musicale. Facciamo rifiatare il nostro scorca Luigi. Sì, ha bisogno di rilassarsi. Vai! Bentornati, questa è Radio Alma, 100 città, ore 8:22 più o meno, 24 per il nostro orologio. 24. Siamo i vostri due conduttori preferiti in compagnia del nostro Scorca Luigi, IMSO, Ext, a me piace molto comunque come suffisso. Sì, manco tanto. Ma invece sono quei suffissi che fanno la differenza. Però solo quello di come Cav, no? Se lo dici con quella prefisso. Faccia, guarda, ti convinci. Mi convinci. Ma un grande oratore. Posso chiedere una cosa al nostro onorevole Scorca Luigi? Certo, dica. Faccia pure. Possiamo onorevole. Ricordare che poco fa Giacomo ha lanciato una straordinaria campagna elettorale, campagna di opinione anche per candidare il nostro Scorca alla presidenza dell'Unione Europea. No Van Rumpi, sia Scorca. Questo è il messaggio che lanciamo dagli uffici di Radio Alma. Quindi la domanda che mi viene veramente da molto dentro. Soprattutto no Blair, sia Scorca. Da quanto profondo? Questa è la mia domanda. Parecchio. Tu che sceglieresti di scendere in campo e di occuparti della cosa pubblica? E per compiere questa nuova scelta di vita, rassegneresti in quel giorno stesso le tue dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che hai fondato? Che bella barzelletta! Prego. Certo che sì, Cribbio. Mi viene da dire veramente con una voce. Lei è una persona coerente. Bravo. Una persona della quale mi sento mi posso fidare. Ditemi. Mi posso fidare. Ma, quindi di conseguenza non farai festi. Ci prometti nessun festino? Probabilmente ce ne tanti, ma solo a noi. Ma tu a lavorare fino a mezzanotte e riattacchi a luna e noi con festini con le veline. Hai visto? Si chiamano. Noi così selezioniamo le cose. Tu ti occupi della cosa pubblica. Noi siamo la cosa pubblica. Allora diamo un po' tutto, cioè in pubblica nel senso democratica e io sono un vero democratico in questo. Bisogna testare un po' tutti, minoranze e maggioranze, perché non si sa mai. Bisogna essere bipartisan, questo può essere ancora infrainteso. Una prostituta intellettuale, direi. Un grande allenatore, esatto, come direbbe un grande allenatore, un po' di prostituzione intellettuale qua. Prego, abbiamo scoperto una scheda entra nell'armadio di Scorca. Mi faccia vedere un po'. Ma qua c'è anche un mini CV del ragazzo. Ricordiamo che abbiamo il tormentone Pacio cerca lavoro. Pacio ancora cercando. Pacio? Ma come? Non l'aveva trovato? Ma non ha trovato lavoro Pacio, purtroppo è andato. Secondo me dopo che avete parlato di lui, sto Pacio non so. No, probabilmente l'hanno arrestato. Cos'è che c'è da mugugnare tu là dietro il vetro? Ti aveva detto che l'aveva trovato. È quello che avevo capito anch'io. Ma mi ha detto che a me è saltuario, una cosa. Sì. Vabbè, insomma. Nord, il lavoro di. Ma scusa, ma io non pensavo che esistesse un paese che si chiamasse Ponte Vigo d'Arzero. È un quartiere, è la circoscrizione elettorale di San Carlo? è una sezione, perché il quartiere nord di Vigili San Carlo, Arcella e Ponte di Godarda. Quartiere nord di? Padova. Di Padova. In nostri Sardegna. Ospiti è... In Sardegna. Uno dei nostri ospiti è... uno dei nostri futuri ospiti a questo punto, lo invitiamo qui per una delle prossime puntate. Ah, qua sta diventando un po' un comizio elettorale, ogni volta qua viene qualcuno... Prima è stata il sindaco di Perugia. Prima Chiara, che si è lanciata come sindaco di Perugia per il 2025, ha lanciato comunque una campagna serrata... E poi abbiamo Judith, abbiamo lanciata sindaco di Bruxelles Honorem. Tra l'altro ricordo che Judith adesso, proprio in questo scorso fine settimana, per i cultori di Radio Alba, per i cultori, per i veri cultori, per chi ci ha seguito città, dall'inizio, i veri fedeli. Judith ha organizzato il, per fare un piccolo riassunto, Judith è quella che è quella che aveva, te la racconto anche a te, lo dice, una nostra cara ospite che era venuta qua a raccontarci la storia della sua vita, ossia che era, aveva mollato Milano e l'università Bocconi per amore, era venuta su a Bruxelles, ad Anversa, dove il suo, aveva ritrovato il suo grande amore, e qua si è dichiarato di una sponda sessuale non proprio consona alla relazione che volevano mettere in piedi loro due. E... sei molto diplomatico, Gianni. Hai visto, sto imparando. E praticamente hanno organizzato, lei adesso studierà a Londra, a fare un master a Londra, e hanno, lei ha organizzato, gli ha trovato casa, hanno organizzato insieme il trasloco, hanno trovato la sua settimana, vanno insieme a Londra. Questa è una grande, salutiamo Judith, come si suol dire, forza Judith. Forza Judith, per chi ce l'avesse chiesto, Judith è una persona vera, esiste, si chiama davvero Judith. Per chi volesse saperne di più, chiaramente sempre la nostra mail a disposizione, radioarma.centocitta@gmail.com. per chi volesse invece intervenire direttamente e supportare la candidatura di Scorca Luigi Imso, ex, non dimenticarlo, europea, possiamo telefonare direttamente allo 027 Bruxelles 345 2656, non vi alza anche un fax di sostegno spontaneo, sì, anche dei contributi economici, anche dei contributi economici. O anche donne nude, perché il nostro Scorca prende tutto. Quindi il tutto fa brodo, no? Sono molto cattolico, poi riesco a dare che a ricevere. Ah, bravo. Prossimo Family Day, Scorca, a noi ci piace la gente come te, quella che difende i crocifissi nelle chiese, nelle case, nelle scuole, nei bagni, un po' per tutto. Però, fortunatamente c'è gente come te nel mondo, e fortunatamente c'è anche la corte di Strasburgo. Bravo Scorca, che non è ancora finita. Ma tu vedrai come abbondare quando è fischer. Per chi è questo bagno di la voce di Palermo che ogni tanto. Questo bagno di latino, bagnum latinum, dammi il deodorante, che questo bagno di latino. Ma tiriamo un po' in mezzo il nostro coinquilino, il nostro collaboratore finanziario, il nostro futuro presidente del mondo in una prova molto più sì. Parlavo proprio di ex. Infatti no, io era chiara quando hai detto presidente del mondo, allora Ma in qualcosa di più concreto che solite menate, parliamo di cucina. Pronti, siamo pronti, 1 2 3 4. Allora, l'angolo della cucina, benvenuti. Sei nell'angolo, sia ti massacriamo di botte. Però puoi scegliere, prima di morire, puoi prepararci qualcosa da mangiare. E se ci piace, forse non muori. Ma soprattutto, la domanda a cui dovrei rispondere. Attento a quello che devo per dire. Come nei quiz che si rispettano, devi sempre aspettare la domanda. Allora, cosa cucineresti per una ragazza perché lei ci stia prima di farlo ubriacare? Qualcosa di tipico della tua bella cittadina. E non vale dire la porta al ristorante e le faccio mangiare questo, perché devi assumere le tue responsabilità e stordirla per bene tu. Sei un italiano all'estero. Di ubriacarla. Sei un italiano all'estero. Tieni alto l'onore. E non solo l'onore, se la fai. Quello sta sempre l'onore di preferenza. Ma su quello c'è tutto da discutere. Lascio a Giacomo la bellezza della scarlattina. No, lasciamo a Barrazzo la scarlattina. Quindi questa ragazza si deve ubriacare, insomma. Te la deve dare. Tu devi conquistarci. Per come ti vedo io, sei molto bella, mi trai moltissimo. È più probabile che quella dia da ubriaca. Mi ha messo la mano sul culo. Cioè, mi ha messo la mano sul culo da 10 minuti. E quindi. È perché ti sta un po' testando. Vediamo se reagisci bene o male. Esatto. Comunque, tiri fuori una ricetta della sua zona. Tu immaginati. Sei qua a Bruxelles, no? Io mi auguro che prima o poi tu voglia scopare in questo posto. Già fatto. Bravo. Che sbruffone. E hai preparato da mangiare, sta povera Cristina. L'hai preparato da mangiare? Assolutamente no. Che cosa che vuoi dire? Lo Scorca qua presente asserisce anche di aver rotto un letto Ikea durante l'amplesso. Ma avrà pagato. Queste voci della curva fanno molto dubitare di certe prestazioni. Il mio vicino è pugliese, un vicino di casa è pugliese, il suo mestiere appunto è, all'interno della comunità italiana, andare a segare le doghe dei letti e viene pagato lautamente per questo, per tutta la comunità appunto pugliese che è a Bruxelles. Quindi posso immaginare, no, che non erano le dughe dei letti che si sono, è una parte di ferro che si è avevi mangiato male. Ah certo, perché adesso tu sei Robocop, no? Avevi allora mangiato... ascolta, io invito tutte le ragazze a mandarci una mail e chiedere di avere prestazioni sessuali con lui, perché a questo punto se abbiamo un distruggitore di letti, ma avrà mangiato pesante, dai, l'avranno fatto, diciamo, questo qua, vai. Gli hai fatto mangiare pesante, l'hai stordita con un cibo, magari quello che ci racconterai adesso. E poi comunque non divaghiamo, no, infatti, partaci con questa storia. No, vi racconto una storia. Ho vissuto in Danimarca qualche anno fa, siete molto interessati, lo vedo. E questa ragazza, praticamente io avevo insomma una ragazza a cena. E un giorno, nazionalità? Una coreana, una ragazza, una carissima amica che ho visitato l'anno scorso. Una carissima amica? Questa ragazza, naturalmente, perché non capisce una emerita mazza di cucina italiana e tantomeno di cucina pugliese. Per lì ci siamo noi, scorca, vero? Ecco, lì si impone il ragazzo. Oh, è lì che casca lo scorca, dai. Non avendo i tortellini, le ho preparato le orecchiette con la panna. E l'hai scorcata le orecchiette con la panna? Ma che pochezzo! Milantando. Sei orribile, scorca. Uno dei piatti tipici. Sei terribile. Ma pensa a te questo. Pure mi ha detto, tastes good. Vergogna. Ci ha fatto anche una foto, devo essere onesto. Al per piatto, dire, guardate che schifo che mangiano in Italia. Cosa ragazzi, cosa io mi inchinerei all'ospite, massimo risultato, minimo sforzo. Machiavelliano. Questo è poco sicuro. Ah, no, aspetta, mica detto se poi ci ha combinato qualcosa. L'hai scorcata? Scorchia? Questa domanda non posso rispondere. Ricordiamo che c'è sua madre, sua nonna, è un la famiglia. Nove domande. Potrei non rispondere a tutte le 10. Ricordiamo che c'è l'intera famiglia Scorca, mi è stato detto comunque. Certo. E affini e affiliati che sono. Affiliati comunque... da varie parti d'Italia, peraltro. Quindi tu mangi solo roba con la panna, ma panna autoprodotta o ti. Dai, Giacomo, di buono! Che ne sai? Questo spacca i letti. La varicella tenta la per te, santo Dio. Spacca i letti, magari fa anche buono. Io ho detto che l'ha mangiato lì, non ho detto che l'ho mangiato lì. Ah. Tu facevi come i ninja, quelli che facevano finta, no? Che si avvelenavano il piatto tutti e due. Va bene, abbiamo capito che è un cuoco pessimo. Scorca, come fanno le donne? Ci stanno le donne, davvero? Sì, le droghe, gli metti qualcosa nel bicchiere. Perché loro dicono, guarda, basta farmi mangiare, andiamo direttamente al suolo. Sì, beh, questo guarda che forse questo è un metodo. Perché sì, le paghi però. Detto questo, un italiano che fa così cagare a cucinare che... Magari sarà bravo. Scorca, togli la mano dal culo. Allora, torniamo. Stai citando, ragazzi. Quindi, ha avuto successo altre volte? Cioè, hai invitato altre coreane? Sempre con i tortellini con la panna. Sempre con le orecchiette con la panna. Sono stato in Corea l'anno scorso. Stato in Corea l'anno scorso. Hai mangiato qualche cane. Molto bello. E ti ha preparato le orecchiette alla panna in onore del nostro incontro. Certo, siamo andati al ristorante italiano cercando un orecchiette alla panna, e noi abbiamo trovato, e lì non l'avete trovato, e tu hai fatto il figo, e detto, vedi, così tipico, esatto. Che lo trovi solo in Puglia, esatto. Che durezza. Ma le orecchiette al cinghiale fammi, le sai fare? Che cosa? Le orecchiette al cinghiale, certo, però non bisognerebbe avere le orecchiette e le cinghiali, ecco. Concreto, è una cucina sintetica, come il riso al curry con il riso curry. Pasta pomodoro, pasta pomodoro, l'olio pugliese, cioè poi il resto manca. No, le cimiti alla paletrova, Gardo mi dice, c'è domenica mattina, sì, trovi un po' di tutto, anche le orecchiette trovi. Sì, quelle sono sicuro. Non quelle fresche, quelle secche. Quelle da mangiare con la panna, dici? Quelle con la panna, solo quelle. Orecchiette scorca. Orecchiette scorca. Anche una sola sonorità. Ma c'ho anche un nome, però, devo essere onesto. Non sputtanatemi sulla radio per i prossimi 100 anni. Ascolta, non è colpa nostra se tu porti nome, cognome, indirizzo, data di nascita su dei fogli stampati della commissione. Luigi, mi suona così strano, ma non ci riesco. Allora, chiamalo Brenda. Allora ha detto, ma ha scritto in una telecamera, ha detto, chiami Brendona. No, ho detto chiamami Brendona. Brendona, no. Vediamo. Cito testualmente. Perché io ero... Mi stai citando? Ero rimbecillito. Che onore. Citando. Il problema è che noi siamo persone un pochino corte, siamo limitati, allora inizio a leggere da in alto a sinistra. Cazzo. Una cosa che ho visto, non me la sono scordata, Scorca Luigi, Info Ext. Ah, ma questo l'ha anche messo al contrario. È proprio una cosa, sì, tutto organizzatissimo, dalla più recente alla più... Così veniva stampato. Anche la pagina in fondo. Su ah, ma lui non ha stampato le mail che ha scritto lui. Ah, ha stampato solo quello che ha scritto io. Solo le risposte. Beh, mica lavora per la commissione, mica è scemo. Ah no, no, aspetta un secondo. E se divido il microfono col mio caro Andrea, bucami per il 5, Brenda. Quindi vedi che c'ha fuori. È qualcuno di voi due? Ah no, no, eccolo qua. Eccolo qua. Io ho sbagliato, ciao Lorenzo, Lorenzo un corno, mi chiamo Luigi, al massimo chiamami Brendona. Ah, ma allora è Gardino, allora sei in quell'edificio della commissione a Gardinor, quello con le luci rosse sopra. Sì, quello, praticamente quello. Quello con le vetrine, sì. Salutiamo le tue amiche in vetrina. Salutiamo le mie amiche in vetrina, speriamo di vedere la cena elettorale di Scorca Luigi for President of the World il prossimo venerdì, se volete anche voi partecipare. Scriveteci a radioalma.centocitta@gmail.com o visitate il nostro blog radioalma.blogspot.com. Cui alla voce ultimi streaming, 100 città. Alla voce ultimi streaming in a sinistra appare la faccina di Scorca. Appare la faccina di Scorca, sarà il nostro banner ufficiale. E così quindi un piatto di tortellini nella panna o orecchiette la panna. La tua famiglia potrà insultarci direttamente e minacciarci di morte. Ma dubito di avere ancora una famiglia dopo stasera. Quindi attenzione alle vendette trasversali. È quello che perché io in quanto siculo me ne intendo, quindi vi invito alla calma, chiaramente. No, ma noi rispettiamo la ti parla un mezzo pugliese, quindi figuriamoci. Io sono 6 quarti pugliese, di più ancora. 8 noni. No, vabbè, perché Fantozzi, che film era di Fantozzi quando era quella cena e dice lei come si chiama? Quello è l'8, no, uno come lei almeno 9, 10, 11, 32. Prova a scappare da è quello in cui si butta nel codice. Era la cena dalla contessa Cervelloni Massanti viene dal mare. Era quei film di Fantozzi dove mangiava il Fantozzi mangiava il pomodorino freddo fuori, dentro 6.000 rivale, dai. Che prova a scappare con la macchina e vede due fare no. E passa invece la Danna Ivan nel 32esimo nipote diretto di Venere Terribile. Sono veramente un cultore dei film di Fantozzi. E chi non lo è? Che italiano saresti se non lo fossi? Cioè, quell'uomo veramente regalato delle emozioni al nostro paese. E Lino Banfi come esatto, ma parliamo di attori comuni del tuo luogo. Sì, c'è Lino Banfi, c'è Solfrizzi. Solfrizzi. Solfrizzi. Cominciamo a strisciare notizie facendo quello con la. No, non era lui. No. Penso abbia fatto. Ha fatto un po'. Non sono vari anni, insomma, che manco dall'Italia. Quindi, però, insomma, lui faceva un programma da qualche parte. Insomma, ma che cosa? Famosissimo, Giacomo. Mi sono perso dei pezzi. Non chiedere un attimo. Si chiamava Cazzi e Ramazzi. Cazzi e Ramazzi. In erotica. Però abbiamo saputo qualcosa di interessante dal nostro amico. Ma andava nel Lazio sta trasmissione. Andava moltissimo nel Lazio. Giacomo, anche se non leggi i messaggini in diretta, o meno condividili con i nostri ascoltatori. Pare che arrivi l'influenza aviaria. Ottimo, mi è arrivata via messaggio. Che botta di culo. Cos'è che dice quello dietro il vetro? La prossima settimana in studio. Siamo aperti a 8. Sì, vabbè, infatti, il prossimo ospite è influenza porcina. Poi vabbè, poi finisce lì la trasmissione. Ma lì lo siamo già tutti. Ma caro Luigi. Oh, finalmente, dimentico il mio cognome. Voglio dire ancora. Caro Luigi, Infsoext. Senti, quindi manchi dall'Italia da diversi anni, ci hai detto. È una sparata, una sbrifonata? No, è un letto rotto dell'IKEA. Ma si può verificare, cioè porti i testimoni, sono fai in Danimarca 2 anni. Io mi fido solo del ragazzo di Palermo. Bravo. Vedo che fidarti del nostro grande Stefano. E mi sfido anche vedo Giacomo che è la guidoniano. Lui mi fido particolarmente perché non ha ancora aperto bocca e secondo me nascono un sacco di segreti su di te. Che vorremmo sapere a questo punto. Un giorno ci potrebbe raccontare. No, ma un giorno lo invitiamo da solo. Da solo, così, fuori dalle vendite trasversali. Comunque, a proposito, vedo che la cartucciera, la lupara, la giacca di velluto stanno facendo il loro effetto perché lei io mi fido assolutamente del palermitano. Io nome di lui. Poi oggi bravo Picciotto, così, bravo. Bravo. Ho imparato. Oggi ho rivisto le facce di Provenzano e di Rina insieme sul Corriere e ho detto bene, ok. È l'alternanza. L'alternanza al governo, esatto. Anche di qualche ex presidente della regione, in fondo, voglio dire. Ma ricordiamo che ogni cannoli per tutti. Io mi dissocio, ogni ospite è responsabile per se stesso. Andate non, non è quello il caro amico, non è un parlamentare europeo, quindi lontano anni luce da qua. Non ti viene a prendere, non ti preoccupare. Allora, in Danimarca si è raffreddato. Ha paura. C'è il terrore. Parmigiano ha paura. C'è il terrore che si taglia a me. Ma prima di raccontarci tutte le tue storie, che saranno sicuramente interessanti, i nostri ascoltatori. Non vedo l'ora di andare in bagno. Esattamente, facciamoli andare in bagno un attimino. Va, dai, Giulio, gasaci. cosa vuol dire avere. Questa, noi abbiamo il nostro paese, io amo il mio paese, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, e vorrei dedicarla questa al ministro della Repubblica. Questa canzone. Ma quale ministro? Un ministro della Repubblica che incarna perfettamente lo spirito di questa canzone. Sì, sì. Chi sì. ha orecchie per intendere. Non troppo vicini al buco del culo. Quindi insomma non credere questo momento patriottico. Ma torniamo al nostro caro ospite. La migliore canzone degli ultimi 150 anni, ragazzi. Certo. Su questo non anni. Certo, certo. Ah, ultimamente sono uscite un sacco di cose migliori degli ultimi 150 anni. È un po' la moda degli ultimi 150 anni. 150 anni, direi, no? No, solo gli ultimi 2-3 mesi. Siete d'accordo? Scrivetecelo su radioarma.100citta@gmail.com. Ah, tra l'altro. Tra l'altro, parliamo di telematica. Abbiamo qui un ingegnere, un architetto, qualcosa di telecomunicazioni. E un economista? Un telecomunista. Un telecomunista. No, un telecomunista. Maetto, attenzione, che guarda che lui ti sente. Lui lo sai che ti sente. Lui c'è. Tra una settimana viene anche qua, pare. Quindi, vero? Ma qui in studio? Sì. Perché c'è il consiglio straordinario per le elezioni di Scorca. Quindi sarà qui. Esatto, certo. Visto che Scorca lo conosce intimamente, ce lo porta qua. Guarda che ragazzo da spettacolo. Come poi sono la scarlatina, lo conosco intimamente. Baci sappici. Parliamo di non sono un ospite a tua disposizione. Che sia chiaro. Ma non ti preoccupare, che non sono un conduttore a tua disposizione. Sei più bello di intelligente. sei più bello di televisione. Vogliamo dire che abbiamo un blog? Vogliamo dare la parola a Giulio? Ma anche no. Vogliamo dare, non la diamo. Giulio sta limonando con Giulio. Giulio. Allora, abbiamo un blog. Abbiamo un blog, illuminaci, non ridimensi. Radioalmablogspot.com. Sticca, abbiamo anche i post, prima non c'erano, adesso ci sono anche i post di 100 città. Sono anche i post, allora nella colonna in alto a sinistra trovate la puntata Grezza, proprio Grezza. Puntata Grezza, che ha bisogno di commenti, Grezza. E poi la puntata dello Scorca per essere a riferimento a quest'ultimo. I post trovate la puntata rielaborata, ritagliata, mettiamo le voci... Le vocine del cervello. Che voci? Cioè, noi quello che diciamo. Intelligente al posto delle cagate. Cioè, quando si parla di figa, ci viene. Esatto. Ah, okay. Ci censura. Lui è un bravo direttore, un bravo governatore. Mi piace. Bravo. Comunque, grazie a Giulio. Che abbiamo anche 5. Siamo 5. Facciamo un applauso poderoso anche a Roberto, che è appena entrato. Grande Roberto, magico direttore. Ciao a tutti. Ci inchiniamo e risultiamo. Ci inchiniamo. Avevo un altro paese. Prosaicamente. E comunque sì, grazie Giulio, abbiamo questo blog e questa è una cosa positiva. Salutiamo tutti i nostri cari colleghi che sono sta popolando alle 8:47. Bellissimo, una meraviglia. Questo giorno di sciopero. Allora, scorda che dopo 2 anni in Danimarca, quanti letti in Danimarca non c'è l'IKEA perché è concorrenza sleale. No, all'epoca era in piedi, quindi insomma, all'epoca non si spaccava nessun letto. Poi spaccavi i coglioni. Poi la vecchiaia, insomma, tende a quelle maniglie che non troppi, quelle maniglie che non vanno più via, ma fanno tanto amore. Fanno tanto amore. Si dice sempre che l'uomo per le donne, o l'uomo e la donna per aprirla, sono come una porta, bisogna prendere dal manico o dalla maniglia. Ma quanto è romantico questo ragazzo! Il ragazzo è una persona molto colta. Glielo presenterei. Guarda che io una volta durante la trasmissione sono rimasto 45 minuti cronometrati da Giulio senza parlare di figa. Scusate se è poco. Sì, effettivamente per te è un record mondiale. Quindi posso dire un proverbio velocissimo. Prego. Tira più un pelo di figa che un carro di buoi, grazie. Bravissimo. Un proverbio nuovo che perla di saggezza alla quale non possiamo assolutamente. Visto che siamo nell'angolo culturale, vorrei ricordare che degli ospiti di Radio Alma, cioè il Palais des Sciences, organizzeranno un evento venerdì prossimo al Centro Culturale Gallego vicino a Pordeal. Se volete, visto che comunque c'era un ingresso a pagamento, si chiama Antitapas, tapas e antipasti, paste varie. Antipastici. Antipatici. Se volete. Se volete fare antipatico, chi non ci va? Se volete, visto che ci vorranno una lista per entrare, insomma, c'è un posto, la capienza limitata per il locale. Scriveteci sulla nostra mail radioalma.100citta@gmail.com. Faremo una lista Radio Alma, una lista 100 città. E quindi, insomma, 100 città, ok. Radio Le birre gratis le prendiamo noi. Esatto. Poi magari allarghiamo anche a qualcun altro. Scriveteci entro la mezzanotte. Se ci scrivono, allarghiamo. Scrivono allarghiamo, entro la mezzanotte dell'11 novembre, perché il 12 poi chiudono le iscrizioni. E buon guerra, prima guerra mondiale a tutti, buona tra l'altro. Guerra mondiale a tutti. In Italia non la festeggiamo. Qua, Festeggiamo la vittoria il 4 novembre. Vabbè, perché loro non hanno vinto niente, con tutto rispetto per il Belgio. Una volta che noi vinciamo una guerra, potremmo festeggiarla. Cazzo. Diciamo che l'abbiamo incominciata con gli altri, però. No, non l'abbiamo, tu hai studiato la storia, abbiamo mai cominciato la prima guerra mondiale con gli altri. Appunto, allora perché dovremmo festeggiarla? Ma che stai dicendo? Noi abbiamo iniziato la guerra a fianco alla Francia. Non importa come si vince, non importa come si comincia con sé. L'asse era un'alleanza non militare. Caro mio snorca, qui la vedo che deve entrare in guerra. Attenzione. Ai, scorca sulla storia. Sarai bravissimo come Impso Est, ma con la storia mi sa tanto che. Come architetta saremo meglio la geografia. Meglio la geografia. Meglio la geografia. E l'educazione fisica. Soprattutto fatta nel nord Europa. Cosa, la geografia? Attenti. Tu sai perché attento? No, io sai che pure io con il nord Europa ho delle implicazioni, ho degli interessi congiunti. Congiunti? Congiunti. Conflitti di interessi. Esatto. Quindi Squarca, tu adesso sei in, possiamo dirlo che sei in commissione? Sì, ho uno stage in commissione. Hai uno stage? Cioè, sto facendo... Hai uno stagista, tu? Sì, uno stragista. Che mandi proprio a chi non ti fa fare, a chi non ti fa passare la fila alla mensa. Tu, vai, passagli la varicella. Il nostro Soca, tra l'altro, mi chiedeva prima se poteva, secondo rimarrando secondi, potrà leggere qualcosa. Tra l'altro, facciamoglielo leggere in fretta perché sta per chiudere la trasmissione. Comunque, vorrei farti notare che questa DG è la DG dove lavora una ragazza che Giulio conosce abbastanza bene. Ah, Giulio! sì. esattamente. Allora, ci leggi da Per il mio paese, 26 gennaio 1994. Hai la bellezza di 3 minuti d'orologio. Se lo riesco anche Stefano a Panocchio. Ragazzi, quello non lo leggo, ragazzi. Allora, guidoniana non posso leggere. Sarà prezzo calpestato dal cui presente Stefano Pagnozza alla fine della trasmissione. Quindi, se volete telefonare al nostro numero 02 345 26 56, per dare un addio a Scorca prima che possa, insomma, partire da questo mondo crudele. Avanti, Scorca. Volevo soltanto leggere velocemente. Quando Enzo Biagio è ritornato in trasmissione nel rotocalto televisivo nel 22 settembre aprile 2007. Dopo l'editto di Sofia. Buonasera, scusate se sono un poco mosso e magari si vede. C'è stato qualche inconveniente tecnico e l'intervallo è durato 5 anni. Ci eravamo persi di vista, c'era attorno a me la nebbia della politica e qualcuno ci soffiava dentro. Vi confesso che sono molto felice di ritrovarvi. Dall'ultima volta che ci siamo visti sono accadute molte cose. Per fortuna qualcuna è anche finita. Oh, sei molto romantico. Facciamo un applauso. Bravo Scorca. Bravo Scorca. Ci ricorda un grande giornalista al quale facciamo grandissimi omaggi. Non ho capito per quale motivo lui si è arrogato il diritto di leggerci. Di leggerci qualcosa del sommo Biagi. Comunque sia, grande Enzo. Perché non dovrei leggerla? Non avrei dovuto leggerla. No, ti stiamo solo prendendo. No, lo so. Poi grande Enzone è stato uno dei più grandi giornalisti italiani. Comunque, siamo arrivati. Dato l'annuncio della liberazione l'ha dato lui. Sì. Per chi si è scordato. Ma più importante di dare annunci è quello di fare il proprio lavoro bene. Esatto, ma quando c'erano lui e dall'altra parte Montanelli era giornalismo, adesso sì. C'è Feltri e Belpietro. Non ci sono solo loro, ci sono infatti io sono in Belgio, e anche voi vedo che siete in Belgio. Ci sono anche altri giornalisti che fanno il loro lavoro. Sì, fortunatamente c'è anche qualcun altro, qualche giornale che Massimo Giannini a Repubblica è un ottimo giornalista. Esatto, no, Repubblica perché Chetti è un ottimo giornalista. Serra. Sì, anche la Stampa. Vabbè, comunque non siamo qua a discutere di quale giornalista. Qui prende per il culo Scorca, insomma, esatto, allora per il culo l'importante è questo. Proprio sul serio, poi viene preso per il culo sia da Del Pietro che da De Bortoli, da tutti quanti. Ci Scorca? Certo. Con Calmani vedremo. Ti vedrete delle belle. Mi ha mandato una mail mastella dicendo: ma chi è che è il chi? Chi è che è il chi? Vabbè ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Volevo ringraziare i nostri ospiti ombre in primis che sono stati qua e con la loro presenza e con le loro perle di saggezza. Con le nostre coppe e le cravatte rosse. Una grande compagnia, siete benvenuti per una prossima e futura puntata a parlare di voi. Voglio salutare il nostro Giulio, fautore magico del blog, della, che della grande atmosfera che ogni volta grande, si respira della grande atmosfera. Ciao a tutti ragazzi, ciao Giulio, senti che voce che avete, sua dente. Scriveteci se volete avere un appuntamento con Giulio, radioama.100.gmail.com. scrivete solo a noi, non dite alla sua ragazza che magari si viene così. io ridò a Storchia sia le ristampate, ridagli anche le mutande che gli hai rubato. Salutiamo il nostro grandissimo ex. Salutiamo il nostro Scorca. Posso leggerlo un'ultima volta? Certo, Scorca Luigi Imso ex. Scalutiamolo per un'ultima. Sono le 20:54 a Bruxelles, in questo giorno di sciopero quasi alla fine. E quasi alla fine anche di questa lunga settimana. Domani è venerdì. E poi c'è fine settimana. E poi ci vediamo settimana prossima, puntuali alle ore 20, sempre su Radio Alma 101.9, 100 città, Jack Fra. Un abbraccio. Ciao Bruxelles. Ciao. Un abbraccio. Ciao.